Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 6 luglio 2015. Land grabbing. Si allarga il fronte contro l'accaparramento di terre. A 3 anni dall'appello rivolto da oltre 60 organizzazioni della società civile ai governi e alle istituzioni finanziarie per rimettere fine al finanziamento del land grabbing, cioè all'accaparramento di terre nei paesi poveri, il fronte di opposizione al fenomeno si è rafforzato. Sono sempre di più, soprattutto in Europa, i paesi in cui il tema è stato portato all'attenzione dei cittadini e sono cresciute le richieste agli investitori istituzionali, privati o pubblici, di non finanziare l'accaparramento di terre, come pure quello di risorse naturali, che riduce la ricchezza dei paesi in ritardo di sviluppo. Diverse istituzioni finanziarie si sono impegnate ad escludere o almeno a regolare in modo restrittivo questi investimenti. Fin qui la notizia del 6 luglio 2015, ma come diciamo sempre, il futuro ha radici nel presente. In questo 2012, la petizione per escludere il finanziamento del land grabbing è stata sottoscritta, tra gli altri, da Mani Tese, che chiude in questi mesi una campagna triennale dedicata alla sovranità alimentare. Josué De Salvo, responsabile advocacy e campagne, spiega così la relazione tra land grabbing e sovranità alimentare. Ragionare di sovranità alimentare vuol dire ricondurre la questione dell'accaparramento delle terre in un discorso più paradigmatico che prende in considerazione l'intera filiera agroalimentare globale. Il tema, il concetto di sovranità, la categoria sovranità è una categoria politica che quindi rimanda ha un'urgenza di tipo democratico, quindi i movimenti contadini nel sud del mondo e molte ONG, fra cui la nostra, ritengono che la filiera agroalimentare sconti un problema di concentrazione di potere di mercato, che la rendono quindi inefficace nel garantire quel diritto al cibo alle persone che più ne hanno bisogno, non solo in termini quantitativi ma anche qualitativi. Ora, la campagna sovranità alimentare, ripeto, considera land grabbing come uno degli aspetti, la campagna si chiama Food for World, è una campagna europea che coinvolge organizzazioni di diversi paesi del continente, Italia, Spagna, Bulgaria, Inghilterra e anche un partenariato in Kenya, mira proprio a sensibilizzare 1.700.000 cittadini europei, questo è il risultato atteso del progetto, sulla necessità di avere questo cambio di paradigma, cioè oltre a domandarsi quanto cibo produrre, si chiede anche come produrlo, a vantaggio di chi, verso quali mercati e in che modi. Il prossimo autunno saremo coinvolti in questa macroattività che si chiama Marcia Mondiale per la Sovranità Alimentare, che in Italia, dopo aver preso le mosse da 4 angoli del pianeta, risalirà la penisola con 9 tappe. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.